Ho sempre creduto nell'esistenza di Dio, tanto è vero che fin dal periodo della mia pubertà mi inginocchiavo in un prato e lo ringraziavo per avermi creato, ma ogni volta gli esprimevo anche il mio profondo desiderio di conoscerlo e di conoscere le sue vie. E Dio, che conosce le profondità del cuore umano, nella sua misericordia mi esaudì e nel maggio del 1964 si rivelò al mio cuore e alla mia mente. Da allora, con profonda avidità, ho sempre cercato il volto di Dio e la comprensione delle sue vie, e nella sua misericordia egli mi ha dato di comprendere sempre più Cristo Gesù e la sua volontà espressa nella sua parola. Fra le tante attività dell'uomo, sono arrivato a capire che non vi è maggior onore per una creatura se non di cercare di conoscere i pensieri del suo creatore. Una verità espressa in questo modo nel libro dei Proverbi: è gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle. PR 25, 2. Ma esplorare le non investigabili vie di Dio è un'impresa piuttosto ardua, senza la pretesa di poter comprendere ogni cosa, anche perché, come sta scritto, l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole, e anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla, Ecce 8:17, di tanto in tanto mi assaliva un certo dubbio, che rimandavo in attesa di arrivare ad una chiarezza razionale. Il dubbio era molto semplice. Non capivo perché in certi giorni gli avvenimenti della vita si accavallavano. Infatti è vero che la vita quotidiana è già piena di affanni di per sé stessa, ma ci sono giorni che sembra che le difficoltà di una settimana siano ridotti nel giro di poche ore. Ti alzi e scopri che uno dei tuoi figli ha la febbre. Ti prepari per andare in farmacia e ti arriva la telefonata che l'idraulico ha tempo oggi per fare un lavoretto in bagno che da tempo rimandava. Mentre l'idraulico chiude i rubinetti dell'acqua per lavorare, ti arriva a casa una tua migliore amica con il suo figlioletto che subito ha bisogno del bagno. Vai a chiedere un favore alla tua vicina, la quale in quel momento sta uscendo con tanta fretta per andare in ospedale a trovare sua madre. Nel pomeriggio hai l'appuntamento con il dentista e scopri che la macchina improvvisamente non parte, batteria scarica. Alla sera, mentre si sta mangiando, il neon all'improvviso si spegne e non se ne ha uno per sostituirlo. Una giornata da panico, una giornata nella quale nulla va per il verso dritto, una giornata no. Possibile che le situazioni negative molto spesso arrivino tutte assieme. Se gli avvenimenti negativi arrivassero un poco più diluiti, questo farebbe parte della vita e li si affronterebbe in modo più sereno. Ma perché Dio permette che avvenimenti si accavallino in modo tale da costringerti a fare una scelta a discapito dell'altra? Ho il compito di predicare l'Evangelo e ci sono mesi durante i quali non ho impegni. Poi improvvisamente invece sono chiamato a parlare 3 o 4 volte in una settimana e in momenti inaspettati. A volte è possibile fare fronte a certi impegni, altre volte è invece necessario ed obbligo rifiutare alcuni inviti per impossibilità pratiche. Se sono in un posto, non posso essere in un altro. Forse il problema reale non sorge tanto nel dover lasciare alcuni impegni per sceglierne altri, ma quando entra il ballo, la morale. Spesso ci si trova a scegliere tra due cose giuste contemporaneamente o tra due situazioni ingiuste per scegliere quella meno sbagliata, e la scelta morale, si sa, è sempre molto sentita. Ho solo un'ora di tempo e contemporaneamente mi arrivano due telefonate di persone che hanno bisogno. Cosa devo fare? Chi devo andare a visitare? Oppure mi trovo in conflitto con qualcuno. Come devo comportarmi? Se parlo peggioro la situazione. Se taccio non risolvo nulla. Qual è la soluzione meno sbagliata? È vero, a volte non esiste il bianco e il nero. Occorre necessariamente muoversi, sapendo che comunque manchi in qualcosa. Ma perché Dio permette situazioni nelle quali, qualsiasi sia la decisione, vi è una mancanza? Questo interrogativo mi ha assillato per tanto tempo, fino a quando la parola di Dio mi ha persuaso. E allora mi sono lasciato persuadere. GR 20.7. Mettere gli uomini nell'imbarazzo della scelta rientra nel piano di Dio. Chi crede in un Dio di amore forse trova questo metodo poco caritatevole, ma secondo la scrittura È proprio perché Dio è amore che agisce in questa maniera. E lo ha dimostrato nel dare le sue sante e giuste leggi. Dobbiamo tenere sempre presente che le leggi che troviamo nelle Scritture riflettono non solo il giusto e santo volere di Cristo, ma anche il suo carattere. Per cui è possibile comprendere le caratteristiche dell'Eterno Dio dalle leggi che ha emanato. Un ladro non potrà mai emanare una legge che condanna i ladri, come il Dio tre volte santo non potrà mai dettare delle leggi che non rispecchiano la sua santità. Così, nell'esaminare anche una sola legge dell'Eterno, possiamo comprendere che il mio sospetto sul Dio Trino è fondato. E se poi il sospetto viene confermato da ciò che Gesù Cristo ha detto, allora non vi sono più dubbi. Nell'antico patto l'Eterno Dio aveva dato due leggi che per nessun motivo potevano essere trasgredite, dimenticate o trascurate, e cioè la legge del sabato e quella della circoncisione. Il comandamento dell'Eterno in merito al sabato era inequivocabile e molto severo. Osserverete dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo. Chi lo profana sarà messo a morte. Chiunque fa in esso qualche lavoro sarà sterminato da mezzo del suo popolo. Si lavorerà sei giorni, ma il settimo giorno è sabato di riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. Es 31.1415. Anche in merito alla circoncisione l'ordine era indiscutibile. L'ottavo giorno si circonciderà la carne del prepuzio del bambino. Il LV 12.3. Di per sé questi comandamenti non hanno nulla di particolare o di difficoltoso, ma se si pensa che a volte occorreva circoncidere un bambino l'ottavo giorno, anche quando capitava di farlo nel giorno del sabato, per un pio israelita era un grosso conflitto di coscienza. Cosa si doveva fare? Era meglio circoncidere il bambino oppure violare il sabato? Violando il sabato si incorreva nella pena di morte. Mentre se non si circoncideva, il bambino si veniva meno ad un importante patto. Non poteva l'Eterno Dio dare delle leggi meno problematiche e conflittuali? Perché ha dato delle leggi tali da creare delle difficoltà morali agli uomini? Non poteva l'Eterno Dio ordinare di circoncidere i bambini anche il nono o il decimo giorno, per lasciare lo spazio di non infrangere la legge del sabato? Perché mettere in difficoltà chi prende sul serio i comandamenti di Dio? Che nessuno sia in grado di comprendere le vie di Dio sta anche bene, al punto che sono arrivato alla conclusione che più conosco meno comprendo. Ma perché dare ordini che creano solo dell'imbarazzo? Che cosa vuole ottenere Dio nel mettere in difficoltà l'uomo che di per sé è già una creatura fragile e complessa? Queste problematiche non sono affatto retoriche o formali, perché anche al tempo di Gesù continuava ad esistere il grande conflitto tra l'osservare il sabato e circoncidere i bambini. Quando i suoi discepoli furono accusati di trasgredire il sabato, Gesù colse l'occasione esprimendosi in merito con queste parole: «Non avete letto nella legge che nel Tempio i sacerdoti nei giorni di sabato trasgrediscono il sabato e tuttavia sono senza colpa?» MT 12.5. E, da notare che con questa risposta Gesù conferma la trasgressione del sabato da parte dei sacerdoti, ma nello stesso tempo non addebita loro nessuna colpa. Tale risposta porta alla conclusione che in situazioni di conflitto tra due leggi giuste, a volte trasgredirne una è inevitabile ma non colpevolizzante, oppure è possibile compiere un'azione non legale ma pur restando sempre legittima. Dunque, se l'Eterno ha dato una legge sapendo che l'uomo non avrebbe potuto osservarla completamente, qual era allora lo scopo nel dare questa legge che creava conflitti di scelta e di coscienza? Perché incastrare l'uomo obbligandolo a scegliere tra due cose giuste per violarne una? La risposta di Dio non si fa attendere. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi lo può conoscere? Io, l'Eterno, investigo il cuore. Metto alla prova la mente, per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. GR 17.9.10. L'Eterno sfida chiunque a conoscere l'animo umano con tutte le sue contraddizioni e inclinazioni. Malvagie, e lui afferma di essere in grado di rivelarlo mettendolo alla prova. Dio prova l'uomo in mille modi e in mille maniere. A volte chiedendo le cose più preziose o mediante il bisogno che vede. lo prova mediante una vita d'afflizione e mediante la sofferenza a causa di Cristo, oppure per mezzo della lode degli uomini o mediante i falsi profeti e la società nella quale vive. Ma nel caso specifico della legge che ordina contemporaneamente due cose contrarie, Dio prova il credente meno o ne svela i pensieri più segreti meno, mediante la scelta stessa da questo intrapresa. Se alla nascita di un bambino tutto è normale, non si può comprendere fino a che punto il marito ama la moglie. Ma nel caso di un parto difficile, dove il padre viene informato dell'impossibilità di salvare il bambino e la madre contemporaneamente, nel qual caso quindi occorre scegliere chi dei due lasciare in vita, solo in quel momento è possibile conoscere quanto amore abbia il marito verso la moglie. Ecco a cosa servono le leggi e le situazioni giuste e opposte. Un re avanti di età e che non ha eredi, nel caso di un parto difficile, molto probabilmente sceglierà la vita del bambino, mentre un povero uomo con 10 figli molto probabilmente sceglierà la vita della madre. Secondo ciò che vi è nel profondo del nostro animo, noi scegliamo ciò che amiamo di più, e se a volte il nostro cuore ci inganna al punto da impedirci di afferrare ciò che veramente ci sta a cuore, guardiamo le scelte che facciamo. Il mio sospetto su Dio era quindi fondato. Il Dio trino delle Scritture non ha bisogno di prove per conoscere ciò che vi è nel cuore dell'uomo, ma siamo noi ad avere bisogno di conoscerci. E le situazioni conflittuali tra due leggi giuste sono le opportunità che Dio ci concede perché possiamo sapere chi veramente siamo, che cosa o chi veramente amiamo. Ecco perché un giorno davanti a Dio tutti i malvagi avranno la bocca chiusa, SL 107.42, perché trovandosi nell'imbarazzo della scelta, avranno avuto occasione di dimostrare cosa realmente amavano di più in questa vita. Gesù disse, ora il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, GV 3.19. Non è vero che saranno condannati alle pene eterne solo coloro che hanno amato le tenebre, ma anche coloro che avranno amato la luce, cioè il bene e la verità, ma tra queste e le tenebre avranno amato di più, cioè scelto le tenebre. Il conflitto tra la salvezza della propria anima e il benessere di questa vita è sempre presente, e l'interrogativo di Gesù conferma il mio sospetto su Dio. Giugno 2007. Ellero.